alza e tocca tutte le città. Presto arriverà da te come pioggia senza nuvole. Lo sentirai giù in strada o da una radio in qualche bar. Bene qui nado corazon, non corras tanto por favor, ma si sa che la routine non si sposa al rock and roll. Tu lo sai come appagarmi, tu lo sai come funziona. Sei grazie, sei regina di storie senza corona. Ma sei per sempre gira mondo, sei o vago vado a fondo. Ma la vita è in Buenos Aires e domani lì da te. Sei per sempre gira mondo, sei col cuore in giro tondo. Ma la vita è in Buenos Aires, ma la vita è muy dolor. Primo giorno.